noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'unica cosa che volevamo sentirci dire è che si riparte da zero, quindi si va alle nuove elezioni. Il presidente federale ha detto che non si dimette, gli altri presenti non hanno preso una posizione, hanno rimandato a un prossimo futuro consiglio federale eventuali decisioni e vedremo. Insomma, per noi, se questa non è la premessa, è difficile parlare d'altro. Oggi ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità della sua collaborazione, dei suoi servizi, quindi da oggi non è più l'allenatore della nazionale italiana gioco calcio. Ho convocato un consiglio federale per lunedì, dove esporrò un programma che terrà conto soprattutto dal punto di vista tecnico-organizzativo e delle proposte che hanno collegamenti anche con alcune leghe, e presenterò questa proposta in modo che il Consiglio parlerà e discuterà su questo. C'è un mondo, che è quello del calcio, che è rappresentato dai vari presidenti delle componenti, che presumo, da quello che ho letto, le agenzie si riuniranno in Consiglio federale e daranno fiducia a Tavecchio, e come tale si assumono questa responsabilità di continuare con l'attuale rappresentanza. È una loro scelta. Meraviglioso tappeto sonoro dei Doors. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Molto bene, insomma, molto bene. Siamo verso la fine di una settimana durissima. Abbiamo dell'elaborazione sentito. Settimana durissima. Abbiamo sentito Tommasi, che è rappresentante dei calciatori, che è risanato prima da questa riunione. Tavecchio, che ha detto Ventura is fired, come volevasi dimostrare. Malagò, che ha detto quello che ha detto, l'abbiamo sentito presidente del CONI. Allora, Tavecchio non si è dimesso, Ventura è stato dimissionato. Questo è lo scenario che era quello prevedibile. Abbiamo in linea due voci che credo discordanti, almeno a sentire e a leggere. Due direttori. Xavier Iacobelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma soprattutto Alberto Brandi, buongiorno. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Ciao a due. Ciao Pier, ciao Xavier. Buongiorno Alberto. Allora, cominciamo pro o contro Tavecchio? Decidi tu. Ma cominciamo, Bardo, contro, credo che sia la posizione contro, di massima, con la K. A parte che, insomma, credo che questo, non voglio fare un'interpretazione estensiva del pensiero di Alberto Brandi, siamo tutti ovviamente depressi e delusi per quello che è successo. Quindi sì, credo che partire dal fatto, dalla tragedia sportiva, è il punto di partenza. È sul futuro, ovviamente, che ci sono magari posizioni diverse. Partirei da Iacobelli. Tavecchio, è una vergogna che Tavecchio non si sia dimesso, perché? Ma no, non userei il termine vergogna, perché spesso viene abusato nel nostro meraviglioso paese, dove però lo sport più praticato è quello di non dimettersi quando le cose vanno male, e quando peraltro in questa circostanza si consuma un disastro epocale, perché fra 100 anni si ricorderà la nazionale di Tavecchio e Ventura eliminata nella corsa ai mondiali di Russia 2018 per la prima volta dopo 59 anni. Io credo che ci siano degli esempi totalmente diversi, totalmente opposti rispetto alla condotta che sta seguendo Tavecchio. Cito Abete, cito Prandelli, cito Lippi Sudafrica 2010, cito Donadoni europeo del 2008, dove venne eliminato soltanto ai calci di rigore nei quarti di finale dalla Spagna, che poi vinse il titolo continentale, che lasciò sul tavolo 800.000 euro di indennizzo che, se avesse voluto, avrebbe potuto incassare. Cito Dino Zoff nel 2000, in un altro contesto, finale dell'europeo persa soltanto al Golden Goal di Trezeguet. No, ma io credo che su Ventura, onestamente, non ci sia discussione. Ripeto, io rivendico. Ma io mi riferivo anche a Tavecchio, Mi riferivo anche a Tavecchio, perché è il capo della federazione che ha firmato e ha sottoscritto questo fallimento, perché lui ha scelto Ventura, lui gli ha prolungato il contratto nel giugno scorso, lui si è cacciato in questo vicolo cieco, la federazione, se non vado errato, dovrà pagare 866.000 euro che è l'ingaggio degli ultimi 8 mesi previsti dal contratto liberamente sottoscritto dalle parti. La federazione dovrà ingaggiare un nuovo allenatore, e quando anche fosse magari Ancelotti, certamente dovrà dargli precise garanzie non soltanto economiche ma anche tecniche. Il problema è che così non si può andare avanti, non può gestire la crisi chi questa crisi l'ha provocato. Chiarissimo. Alberto Blandi che ha fatto un editoriale ieri nel quale insomma ovviamente ribadisce il fallimento tecnico, però se provo a riassumere, la gestione di una presidenza di una federazione così importante ha un aspetto tecnico ma ci sono anche altre cose, è questo un po' il senso? Ma penso alla gestione di tutte le federazioni, perché guardando i risultati ottenuti da molti sport, soprattutto di squadra negli ultimi tempi, sarebbero dovuti cambiare, non so, una decina di presidenti federali, invece non è stato così, anche di sport singoli come più recentemente è successo all'atletica. Secondo me, per valutare l'operato della federazione, i risultati contano, pesano tantissimo, sono drammatici se pensiamo a quello che è successo l'altro giorno agli azzurri per una mancata qualificazione storica, perché è la prima volta che non partecipiamo a un mondiale a 32 squadre, quindi siamo dalla 33esima in giù, la volta precedente era 16. Però dietro, secondo me, bisogna valutare tutto quello che è stato fatto in questi anni e che mi dà fastidio non venga sottolineato, evidenziato o quantomeno criticato in questa fase dove tutti stiamo badando da buoni italiani solo ed esclusivamente ad una cosa, al risultato del campo. Molti ci insegnano anche a valutare le prestazioni, e le prestazioni della federazione, se volete, ma vi farei perdere molto tempo, potrei enunciarvi cosa ha fatto la federazione da quando è cominciata l'era Tavecchio nel 2014 fino ad oggi e cosa vuole fare nei prossimi anni. Mi sembra una federazione moderna, virtuosa, un organismo rispettato a livello internazionale, ieri lodato da Gianni Infantino, che tutti conosciamo come persona retta e rappresentante del nuovo del calcio mondiale. Ecco, vorrei che la riflessione fosse un po' più ampia e non ricondotta solo al nome dell'allenatore. Nell'editoriale ce l'ho davanti, peraltro, citi il fatto che il margine operativo lordo è cresciuto di 6 volte rispetto, certo, alla gestione precedente. Fra l'altro il Fatto Quotidiano ha fatto una bella inchiesta l'altro giorno, esatto, nella quale dice che 23 delle 43 federazioni del nostro sport, dello sport italiano, sono in perdita, e invece la Federcalcio ha un margine operativo lordo che è cresciuto tanto. Il VAR, Pier, vogliamo fare i populisti? Mi adeguo. VAR, esatto, l'hai nominata. VAR c'è in Italia, niente, grazie alla federazione. Non c'entra il populismo, di quale populismo stiamo parlando? Però, direttore, parlando della federazione nazionale eliminata dalla Corte mondiale però, dopo 50 anni, cosa però, c'entra il populismo? Cosa c'entra i bilanci della federazione? Savier, non voglio vendere nessuno, me frega niente, ok? È chiaro che la panza italiana avrebbe voluto vedere rotolare nel cesto, oltre a Tasti Ventura ovviamente, quella di Tavecchio. Perché questa espressione? Quali sarebbero state le alternative? Uno lancia un programma, se fallisce se ne assume la responsabilità, punto. Ma nel programma non c'è solo la qualificazione mondiale, Xavier. Come non c'era? Ma non c'è solo di Olivieri, Non c'è solo quello. Alberto Brandi dice che non c'è però soltanto quello nel lavoro di un presidente della federazione, è così? Sì, ma voglio dire, ma un conto è il giudizio precedente, che è quello che attiene il resto, ma noi stiamo parlando, se non sbaglio, dell'eliminazione, stiamo parlando da ormai 4 giorni, dell'eliminazione dell'Italia dalla corsa ai campionati del mondo, cosa che non si verificava da 59 anni, se non si verificava da 59 anni qualche motivo ci sarà, qualche errore sarà stato commesso, o invece non è successo nulla, no, bisognerebbe però c'entra il bilancio della Federcalcio, che tra l'altro avrà dei serissimi problemi. È solo un aspetto importante, ma non vorrei ridurre la mia difesa solo ai conti della Federcalcio, c'è ben altro. Ti chiedo, Xavier, avresti cambiato opinione e giudizio se non ci fosse stata la deviazione sul tiro di Johansson, se non ci fosse il tiro finito allora, sotto Alberto, contro il palo di Damian, oppure se ci avessero concesso un rigore dopo 10 minuti avresti cambiato giudizio? Grazie, no? A Dio, grazie a Dio dei buoni testimoni, e dal primo momento in cui, dalla prima partita, e poi chiedere ovviamente agli autorevoli colleghi Alessandro Vocalelli e Stefano Barigelli, rispettivamente direttore e condirettore del Corriere dello Sport, dalla prima partita del girone di qualificazione mondiali ho detto con questo non andiamo ai mondiali, ma non perché evidentemente il commissario tecnico non meritasse assoluta considerazione e rispetto per la sua carriera, ma perché purtroppo, non avendo l'esperienza internazionale richiesta a questi livelli, saremmo andati a sbattere contro un muro, e purtroppo dal settembre scorso noi ci siamo incartati, e secondo me la federazione italiana avrebbe dovuto fare come la Federcalcio croata, che ha cambiato il tecnico 3 giorni prima su questo sono d'accordo in Ucraina ed è andata ai mondiali, su questo sono d'accordo, ma non l'ha fatto perché la federazione è debole, questa su questo si può discutere. Dico anche però, lo dico per onestà, l'ho detto ieri, lo dico oggi, che se giustamente si imputa, e secondo me, ripeto, stragiustamente si imputa a Tavecchio la colpa di aver sbagliato allenatore, un allenatore che fra l'altro, se ci andiamo a prendere i nostri commenti di noi classe giornalistica in quell'estate lì, non era stato accolto con scetticismo e terrore, era stato accolto normalmente. No, aveva scelto pure Conte Tavecchio, poi secondo me si doveva dimettere come atto dovuto e presentarsi di fronte agli organismi del CONI e a rimettere il mandato per un discorso di comunicazione, per un discorso perché il fallimento è talmente grande. Ma un discorso di coerenza, Pierluigi, ma nessuno sottace né i meriti di Ventura, prima stagione azzurra, nessuno li sottace, nessuno sottace il fatto dell'epopea di Conte, che purtroppo ha lasciato la nazionale, ma al tempo stesso nessuno, siccome noi siamo abituati a giudicare i fatti durante il loro svolgimento e come poi i fatti si tramutino o in successi o in insuccessi, purtroppo, maledettamente, malauguratamente, l'Italia è stata eliminata dalla corsa del mondiale. Allora che cosa accade? Perché il signor Abete in calce a Uruguay-Italia nel 2014 sentì istintivamente di dimettersi, così come Cesare Prandelli? Questo è il discorso. Dopodiché possiamo parlare, e ci porterà Ancelotti, magari ci porti Ancelotti Tavecchio, ma Ancelotti da solo non potrà risolvere nulla se alle spalle non ha una federazione che magari istituisce il campionato riserve e lo ordina e ordina la Lega. Aspetta, allora lo vuole fare. Allora un attimo solo. Mozione d'ordine. Traffico, replica di Brandi e poi la controreplica di Savia Iacobelli, poi salutiamo entrambi, cominciamo anche a parlare con gli ascoltatori 0024. Abbiamo anche appuntamento con uno che è stato, insomma, ieri evocato da Graziani come possibile CT. Claudio Gentile. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Alberto Brandi e Svea Cobelli, chiudiamo il discorso così. Ad Alberto Brandi voglio chiedere, trovi delle differenze tra questa situazione e quella che portò alle dimissioni di Abete citate da Iacobelli, Alberto, e in seconda battuta, Ancelotti è possibile che venga e sarebbe la soluzione, la panacea di ogni male? Allora, sulla prima ti dico un contesto diverso, e anche lì secondo me è stato valutato un po' come siamo arrivati a quel risultato. C'erano altre situazioni oltre a quelle dell'eliminazione che hanno portato a quella decisione rispettabilissima, onorabilissima. Cos'è cambiato adesso? Che è partito un progetto che si è sviluppato in questi anni, che deve continuare perché non è stato ancora completato. Le squadre riserve sono un cavallo di battaglia di Tavecchio che trova resistenze, come nella riorganizzazione dei campionati. Ci parlano tanto di calcio giovanile. Non esistevano i centri federali prima dell'era Tavecchio. Ne sono stati fatti 30 dal 2015, ne devono essere fatti altri 170 entro il 2020. Calcio giovanile, nei mondiali Under 20 siamo arrivati terzi, miglior risultato storico. Io non so, vedo tanta positività in quello che può continuare. Poi capisco che Tavecchio, un po' per il suo, scusatemi il neologismo inglese, look and feel, non possa piacere a molti, forse anche perché il suo nome fa rima con vecchio, ma c'è tanta innovazione in quello che ha fatto la federazione in questi anni. Penso che sia una delle migliori federazioni italiane, togliendo ai noi il risultato. Ancelotti? Certo, Ancelotti sarà un'altra carta pesante che il presidente federale si sta giocando da ieri. I contatti ci sono stati, l'ultimo da quello che che posso percepire, c'è stato addirittura ieri sera, è l'uomo giusto dal quale ripartire, perché poi chiederà anche delle garanzie dal punto di vista tecnico e di riorganizzazione delle nazionali, per cui probabilmente con Ancelotti andremo anche verso un unico modulo in tutte le nazionali, e sarebbe la miglior soluzione per tutti. Grazie Alberto Brandi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Io invece a Jacobelli, sei d'accordo, Piero? Vorrei chiedere se è solo da un calcio di rigore che si giudica un giocatore. Uso questa parafrasi. Savie, è solo da questa eliminazione che si deve giudicare il lavoro della federazione o no? Allora, intanto volevo dire che sui centri tecnici federali sono riservati soltanto ai calciatori dilettanti e non servono a nulla in chiave professionistica. Se qualcuno ha tempo e voglia e pazienza di leggere ciò che ha dichiarato oggi Giorgio Perinetti, che non è un passante, ma uno dei migliori dirigenti del nostro calcio, attuale direttore generale del Genoa, ha sottolineato come questi centri federali riservati ai dilettanti non possano ovviamente essere utili alla causa della nazionale. Quindi io credo che qui non si tratti di un calcio di rigore, qui si tratti di giudicare e di valutare ciò che è accaduto in questi due anni a livello di nazionale, che è la squadra più importante del nostro calcio, non fossaltro anche per il seguito popolare, l'amore e soprattutto lo shock e la frustrazione che ha provocato e che non è ancora passato, a me personalmente non è ancora passato e penso nemmeno a voi. Temo non passerà. Ecco, esatto, poi soprattutto quando poi arriverà il sorteggio, poi arriveranno le partite, sarà molto bello seguire Corea del Sud Panama. Andiamo avanti, con tutto il rispetto per la Corea del Sud e per Panama. Detto questo, la questione è semplicemente di metodo, e cioè se io dirigo un giornale e il mio giornale va a rotoli e l'editore mi chiama e mi dice il giornale va a rotoli e per colpa tua, io me ne vado, mi assumo la responsabilità, questo deve essere, altrimenti tutte le volte ci si arrampica sugli specchi, si trovano delle attenuanti e a pagare in questo caso è il signor Ventura, che era il più facile capo espiatorio. Ma perché invece chi ha firmato questo progetto non si assume la responsabilità del suo fallimento? Però posso dirti una cosa, Ventura, ripeto, al quale io voglio pure bene, però nella situazione, cioè il colpevole, visto che la crisi è una crisi sicuramente tecnica, mentre la gestione della federazione può essere vista, analizzata da mille punti di vista, con cose buone e cose meno buone, l'aspetto catastrofico è stato l'aspetto tecnico ed è stato in questi ultimi mesi sicuramente. Ventura, a me la cosa di Ventura che si fa licenziare proprio non mi è piaciuta, no, nel senso che secondo me quello è il fallimento è soprattutto tecnico, anche se va detto soprattutto che tecnico. Se lui vuole rivendicare i suoi soldi dopo essersi stroncato la carriera per demeriti suoi e dopo essere stato ricoperto di fango, mettiamo così, da tutto il mondo, in questi giorni quello può avere un prezzo. Poi, e quindi fa bene anche secondo me in soldi. Generale c'è un tema di comunicazione dove tu 24 ore dopo una roba del genere una cosa la devi dire, e lo stesso Tavecchio, esatto, secondo me doveva assolutamente dimettersi e rimettere il mandato al CONI e a tutti gli organi della federazione e poi rivendicare, secondo me, rivendicare la parte di risultati che secondo me ci sono delle luci e delle ombre nella gestione dal punto di vista politico della federazione in questi anni. È chiaro che lui è partito malissimo, sappiamo, con quelle gaffe drammatiche, ha fatto delle cose che sono d'accordo sui centri federali che non sono ancora a regime sicuramente, però su alcune cose, sulla politica internazionale si è mossa bene nel momento nel quale noi parliamo di quello che è UVA oggi. Oggi UVA è diventato vicepresidente dell'UEFA. Questo è un successo politico. Poi a me piace il pallone e non me ne frega niente di queste robe. Però per uno che fa il presidente federale, questo è un risultato oggettivo. La Christian Link è entrata nel board della FIFA, questo è un dato oggettivo. Il fatto che siamo stati fra i primi paesi che hanno fatto il VAR, questo secondo me è oggettivo. Dal punto di vista tecnico la situazione è drammatica e quindi secondo me era giusto che Ventura dicesse addio dopo qualche ora, senza dopo se qualche e minuto, senza ma vorrei dire. Sì, dopo qualche minuto, dopo quello che è, insomma, perché dicesse già nella conferenza stampa non avrebbe mai più allenato la nazionale perché il fallimento è stato di natura tecnica, e che Tavecchio rimettesse il mandato per capire se c'era ancora la fiducia da parte degli organi del CONI nella sua direzione. Questo secondo me è il tipo di percorso. Allora io devo salutare Savie Jacobelli per la e poi scusate, le alternative, perché in tutto questo quali sono le alternative? Cioè viene a fare Maldini il presidente della federazione, viene a farlo Demetrio il presidente della federazione, oppure dopo discutiamo anche di questo aspetto. Intanto fammi salutare e ringraziare Savie Jacobelli, grazie direttore, a presto. Torniamo su questo tema. Allora, da un punto di vista tecnico, Pierluigi, se ieri Tavecchi avesse rimesso il mandato, sarebbe entrato in carica vicepresidente vicario Sibilia, che a quel punto la Federcalcio sarebbe stata commissariabile. Però scusami, il vicepresidente avrebbe dovuto rimettere il mandato assieme al presidente, cioè secondo me bisognava azzerare, ci voleva che Tavecchio e gli organi della federazione si presentassero dicendo questo è il nostro mandato. Ordinaria amministrazione, ok, cioè per l'ordinaria amministrazione sta in carica e deve indire elezioni entro 90 giorni e comunque in caso di dimissione di Tavecchio la Federcalcio sarebbe stata commissariabile. Questo da un punto di vista giuridico lo scenario che sarebbe posto. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo spostare un attimo il tema dalla presenza della Federcalcio alla qualità proprio del calcio italiano, del livello del calcio italiano, perché non dimentichiamo che nel 2010 siamo usciti al primo turno di un mondiale eliminati dalla Nuova Zelanda. Uh-huh. Nel 2014 abbiamo perso con la Costa Rica. Sì. Io continuo a sentire parlare di giocatori italiani giovani, promettenti. Io onestamente non vedo nessun giocatore veramente forte, una qualità di gioco di giocatori veramente all'altezza di quelli che abbiamo avuto in passato. Lo stesso europeo del 2016 che abbiamo tutti decantato, siamo arrivati avanti grazie a solo una grande grinta, una grande organizzazione tattica, ma con scarsissimo talento. Quindi secondo me il grosso problema del calcio italiano è quello che manca, diciamo, il talento, mancano i giovani di talento, manca la struttura. Allora manca secondo me una vera superstar come c'era in Germania, Totti, Del Piero, avevamo delle superstar in passato, Pierluigi, molto chiacchierate, molto discusse, molto che dividevano molto, però le avevamo. In questo caso abbiamo una squadra in cui la superstar manca. Non sono d'accordo sul fatto che manchi completamente il talento in questa squadra. No, neanche io. Ma no, ragazzi, ma il fallimento è stato, premesso che il girone non era semplice. Io mi ricordo, però secondo me c'è un discorso di onestà intellettuale. Allora, quando Ventura è stato chiamato 2 anni fa perché Conte non ha voluto continuare, non perché la federazione l'abbia certo, mandato evidente. Via. Okay. E ricorderete, ci fu anche una polemica per un presunto endorsement, per un presunto consiglio che l'allora premier Renzi, pare, poi non si è mai capito, aveva dato alla federazione per prendere Montella. E io mi ricordo da moltissime parti, quando invece venne ufficializzata appunto la presenza di Ventura, pure io, eravamo tutti sereni, eravamo tutti tranquilli, non la consideravamo una tragedia sportiva. Questo lo dico perché bisogna essere onesti intellettualmente. Io sono rimasto deluso, io non me l'aspettavo, io non lo pensavo. Poi che Ventura non sia Conte, questo lo sapevamo subito, ma sappiamo anche bene che gli allenatori dei top club sono un'anomalia sulla panchina della nazionale. Conte è stato un'anomalia, discorso che ho fatto mille volte. Poi sicuramente negli ultimi 3 mesi Ventura ha fatto dei disastri assoluti. Ripeto, secondo me l'aspetto dove è mancata la federazione è soprattutto in quello, nella parte tecnica, cioè la parte tecnica della squadra nettamente più importante. Nella ragione Iacobelli di questa vicenda, è crollata. Nella gestione di questa vicenda, perché io sono d'accordo sul fatto si poteva provare a cambiare con una mossa che sarebbe stata rivoluzionaria, ma serviva probabilmente una rivoluzione di questo tipo per salvare. Ma non credo che Ancelotti sarebbe venuto ad allenare per 2 partite, cioè per 2 partite, io sono d'accordo con te, per 4 mesi, non 4 mesi, e il Bernabeu è i primi di settembre, no, ok. Va bene, per la tragedia sportiva si consuma al a metà settembre. Tu a metà settembre avresti dovuto cacciare Ventura a 2. No, ma io dico, per carità, col senno di poi hai ragione. Però avresti dovuto cacciare Ventura a 2 partite dalla fine del girone per prendere chi? Ancelotti, in quel momento, fra l'altro, era ancora allenatore del Bayern perché è stato esonerato dopo. Ma al di là di questo, cioè, insomma, non mi sembra una cosa così semplice. No, semplice no, però in quel momento poi hai visto come sono andato a rotolare le cose. Certo, col senno di poi è facile, sono bravi, schifo, ragazzi. È chiaro, sono bravi tutti. Cioè, il punto adesso di partenza è il peggior disastro sportivo degli ultimi 60 anni. Moreno da Milano. Poi Borsa. Moreno, dica. Buongiorno, ciao. Io volevo dire 2 cose. Uno, che secondo me state spostando molto sulla dirigenza e abbastanza poco sui calciatori, che secondo me qualche responsabilità ce l'hanno. E la seconda cosa è che ho sentito gente come Tommasi che parla adesso, quando quest'estate non ha detto nulla sui suoi calciatori che sono stati imbarazzanti, mandando certificati, adesso chiede dimissioni, e 2 ministro Lotti che parla di dimissioni. Ecco, lui dovrebbe essere già un dimissionario da tempi non sospetti, a meno che riesco a parere. Vi chiedo un commento. No, ma il commento te lo faccio dare dai commenti degli ascoltatori che arrivano, no? Quanto percepiranno i giocatori convocati per le partite della Spagna fino all'ultima con la Svezia? In campo c'erano loro, ci scrive uno che non si firma. Siete degli ipocriti, quando Ventura è stato incaricato c'era la coda per diventare CT, tutti sapevano che saremmo arrivati secondi con la Spagna nel girone, allora adesso è solo aria fritta. Ci sono anche quelli che dicono vergognatevi, non si può neanche pensare di difendere lontanamente Tavecchio, i centri federali sono sempre deserti, cioè è veramente un quadro sì, di... Ma racconta, ragazzi, racconta la tristezza, il dolore e la confusione che c'è in questo momento. Insomma, assolutamente, poi, io però, ripeto, secondo me Tavecchio da un punto di vista di comunicazione si doveva presentare, perché è successa un'apocalisse, uso l'aggettivo suo, quindi si doveva presentare e rimettere il mandato. C'è anche chi ci dice, aspetta, c'è un retroscena che ovviamente vi diamo col beneficio inventario: vivo a Bari, ho contatti indiretti, voleva dimettersi Ventura con Tavecchio in conferenza stampa ma gliel'hanno impedito. Ma ognuno, io ci credo, ognuno può, insomma, in quel può momento, dire quello che vuole. A quel punto lì ci sono pochi che possono impedirti di fare un gesto del genere. Ci fermiamo per la borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ho ancora voglia di allenare tutti i giorni, quindi non ho ancora pensato di poter prendere un giorno la nazionale. Fino a che ho la voglia e il desiderio di stare tutti i giorni sul campo, è chiaro che questa una nazionale non me lo permette di fare, quindi preferisco per il momento non pensarci. Allenerei la nazionale italiana nel momento in cui non ho più voglia di allenare tutti i giorni. Arrivano una marea di messaggi di tutti i tipi, c'è chi ce l'ha con Lotti, c'è chi ce l'ha con Malagò e rivendica, però non sono i mondiali di golf, la Ryder Cup è la terza competizione al mondo per indotto, e poi non sono neanche 200 milioni di denaro pubblico, sono molti meno ed è una fideiussione. Comunque voglio dire, c'è anche chi ce l'ha con Malagò, c'è chi dice Ventura a 70 anni ormai ha chiuso col calcio ed è quindi chiaro che non rinuncia ai soldi della sua pensione, fa bene. Poi c'è chi dice che l'inizio della fine del calcio italiano è il 9 luglio del 2006, questo è Mario, dice era colpa di Ventura anche in Sudafrica e in Brasile quando siamo usciti ai gironi contro Nuova Zelanda e Costa Rica. Insomma, il dibattito è ampiamente in Mario corso. Mario Pinto. Il vero colpevole è Cairo, che ha liberato Ventura, non poteva tenerselo. Credo che questa sia più che altro una battuta. Si è fatto di Ventura il capo espiatorio, ora si cerca un grande nome. In Federcalcio sono ancora lì incollati alle poltrone. I centri federali sono sempre deserti. Questo ve l'avevo già letto. Vabbè, insomma, c'è di tutto. Comunque, quello che abbiamo sentito. Ce n'è anche per me, che sono un parolaio, mi dicono. Sì. Ma ognuno ha le sue opinioni, anche per te, perché dice che prima della partita con la Svezia in quell'occasione dicesti che con il dovuto rispetto per la Svezia non vedevi nessun pericolo ritacchiando per l'Italia. Ragazzi, no, io non me l'aspettavo, io neanche me l'aspettavo. Dopo la prima partita invece sì, e l'ho anche detto, ahimè. Comunque, quella che abbiamo sentito era la voce di Carlo Ancelotti, non di 6 anni fa, ma di 40 giorni fa, il 6 ottobre del 2017. Abbiamo sentito le parole di Ancelotti e abbiamo convocato Andrea Schianchi, noto notissimo collega della Gazzetta dello Sport, che Carlo Ancelotti, essendo parmigiano, Andrea Schianchi lo conosce molto bene. Buongiorno Andrea, e da tutta la vita. Buongiorno a voi. Che fa Carletto secondo te? Al momento sta pescando salmoni a Vancouver, in Canada. Ma quanti sono sti salmoni? Perché questa roba dei salmoni io la sento da un po'. Quanti salmoni ci stanno? Fra un po' sarà svuotato tutto lì. Ce ne sono tanti in Canada. Ce ne sono tanti i salmoni. Bene, quando ha finito ce n'è qualcuno anche qua. Quando ha finito le esche? Quando ha finito le esche, bisogna vedere se gli arrivano delle telefonate, perché a me francamente questo giochino diverte moltissimo, devo dire, lo vivo dal di dentro e dal di fuori, mi diverte moltissimo perché ci sono tantissime persone che dicono ho parlato con questo, ho parlato con Ancelotti, allora con Ancelotti è difficilissimo poter comunicare per un motivo molto semplice, che ci sono 9 ore di fuso orario e che i telefoni di Ancelotti non sono così facili da reperire. Io credo che il suo nome in questo momento venga un pochino utilizzato, cosa che a lui dà molto molto molto fastidio. Consiglio. Ah. Quindi tu ci stai dicendo, in pratica, dietro alla, a quello che Tavecchio ha fatto capire, che può essere, perché può essere anche utile per lui per provare a, a recuperare un minimo di consenso, dietro al nome che è stato fatto c'è di fondo un bluff? Ma non è che ci sia di fondo un bluff, è chiaro che il nome di Ancelotti è un nome che va bene, ma non, non può essere il nome di Ancelotti legato a, a, alla corrente Tavecchio o alla corrente Malagò o alla corrente Uva o alla corrente Siviglia. Cioè, a me sembra che l'Italia stia perdendo una grandissima occasione, cioè? Che è quella di capire quello che si vuole fare, perché se noi continuiamo a pensare che il problema sia Tavecchio, Uva, Siviglia o Malagò, non risolviamo i problemi del, del calcio italiano. E qual è il problema allora? I problemi del calcio italiano sono abbastanza evidenti e abbastanza chiari. Cioè, questo è un sistema che rappresenta il terzo polo industriale del paese e non è gestito da terzo polo industriale del paese. È possibile che ci siano due leghe commissariate? Non mi risulta che i presidenti delle leghe, che i presidenti della Serie A rispondano ai nomi di Tavecchio, di Malagò, di Uva. Quindi nell'immediato, Andrea, nell'immediato attorno al problema. Nell'immediato, secondo te, cioè, la il problema è che manca, è che manca il problema è che ci sono imprenditoriale. No, il problema è che ci sono degli incompetenti in questo mondo, punto. In questo ambiente ci sono degli incompetenti che badano solo ed esclusivamente ai loro interessi, ma questi incompetenti, sia ben chiaro, non sono soltanto Tavecchio e compagnia bella, sono anche altri, sono anche i presidenti dei club che mi risulta abbiano eletto Tavecchio. O mi sbaglio? No, giusto, ma che facciamo? Ah, ecco. Perché se andiamo a votare un nuovo presidente federale tra 90 ma giorni... Ma non è questione di votare. Prima di votare ci vogliono i progetti. Bisogna sapere che cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Dopodiché si sceglierà anche l'allenatore della nazionale. Ma non ma c'è tema. Andrea, come facciamo? Io dico oggi, in situazione di emergenza, ok, i progetti non riesco Carlo, a capire come si fa. A dire... Tu hai ragione a dire che è una situazione di emergenza, ma se la situazione di questo momento viene affrontata come situazione di emergenza ci ritroviamo punto e a capo. In questo momento bisogna scegliere una persona che stenda un progetto e dire noi vogliamo fare questo e vogliamo andare qui. Quando sappiamo quello, allora poi dopo si possono fare le scelte sulle persone. Sono d'accordissimo, perché altrimenti vai a fare un'altra discussione politica, non ci sarà più Tavecchio, ce ne sarà un altro, magari ci sarà il numero due che magari sarà anche bravo, io non lo so, però voglio dirti, bisogna cambiare il sistema, non bisogna cambiare. Va bene, allora che esca, che aspettiamo con fiducia, a braccia aperte, chi stenda questo progetto lo renda pubblico, così come aspettiamo, tu hai detto Andrea, il nome di Ancelotti in questo momento è un po' strumentalizzato, a Carlo dà molto fastidio, aspettiamola anche la voce di Ancelotti, perché una telefonata tra una Nesca e l'altra può anche farla o fare un comunicato all'Ansa o che ne so io, o chiamare te. No, ma non credo che lui, non credo, allora che Carlo voglia continuare ad allenare se possibile un club perché lui si sente ancora un allenatore, diciamo, da tutti i giorni, quindi da andare in campo tutti i giorni, questo è fuori di dubbio, però al momento lui, pur essendo legato ancora al Bayern di Monaco fino alla fine della stagione, sappiamo che al momento, al di là di qualche pourparlers con qualche squadra inglese, non ha, quindi è chiaro che da qui a giugno molto probabilmente potrà ricevere delle offerte, penso al Liverpool, penso all'Arsenal, forse lo stesso Chelsea, se andasse via Mourinho dal Manchester United, forse anche il Manchester United, eccetera. È chiaro che la cosa va fatta velocemente, ma guardate che per stendere un progetto decente non è che ci vogliono sei mesi, cioè basta tre giorni, due giorni, invece di perdere del tempo a fare delle riunioni dove si discute io sono contro di te, tu sei contro di me, eccetera. Basta che un dirigente metta lì e dica guardate, bisogna fare che ci vogliono gli stage obbligatori, ci vogliono le academies obbligatorie, ci vogliono, cioè, non è che ci vogliono scienziati, non è che chiamare ti ripeto, corretto, ma aspettiamo a braccia aperte. Tu che lo conosci benissimo, È quel momento potrebbe essere arrivato, perché la sensazione è che non sia arrivato il momento di allenare una nazionale. Abbiamo sentito anche le sue dichiarazioni di non molto tempo fa. Però in un clima di salvezza nazionale, magari con una Federcalcio rifondata e con delle persone, diciamo, amiche e di cui si fida dal punto di vista anche concettuale, perché io credo ci sia anche questo, no? Cioè, un conto è se lavori con Tassotti, con Maldini, con Albertini, faccio tre nomi a caso. Io ci ho parlato anche ieri. Se c'è un progetto chiaro con delle persone che lo sostengono e che lui stima, eccetera, io non credo che. Allora, problemi di soldi non ne esistono. Questa è una cosa che deve essere molto chiara. Problemi di soldi non ne esistono. Veti sulle persone non ne esistono. Il problema è che manca il progetto. Cioè, che cosa stiamo andando a fare? Però scusate, se non sbaglio, questa è la notizia, il titolo della giornata. È quella cosa che hai detto tu adesso, perché se lui ieri ti ha fatto capire che a fronte di un determinato progetto preciso lui sarebbe pronto, ma c'è scritto anche sulla gazzetta di oggi. Sì, però certo c'è scritto anche sulla gazzetta di oggi, però allora questo mi sembra veramente il tema centrale di tutto, cioè dell'agenda della Federcalcio da adesso in avanti. Questo è evidente. È chiaro che ci deve essere prima di tutto un progetto. Ci deve essere un progetto. Se c'è un progetto, a quel punto lì si potrà discutere, a quel punto lì lui potrà dire sì, mi piace questo progetto, no, non mi piace questo progetto. E aspettiamo a braccio aperte chi lo presenti. Aspettiamo, ripeto, Andrea, a braccio aperte chi lo presenti. Quasi scrivere a lui il progetto. A schianchi, no, nel senso che voglio dire, se c'è la possibilità. Ragazzi, c'è un problema enorme di credibilità e di immagine, secondo me, al di là di tutto, che supera, lo ribadisco, secondo me supera i fatti. Cioè, il problema vero di questa federazione è stato un problema di immagine. Traffico. Saluto Andrea Schianchi, sono Andrea Grazie. Ciao Andrea, grazie. A presto. Grazie. Ciao Andrea Schianchi, traffico, poi ascoltatori. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Meno di 5 minuti al gong. Marco da Potenza praticamente ha ascoltato tutta la puntata al telefono, lo ringrazio. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per la convocazione. Senta, la mia domanda era prettamente formale, diciamo, sul contratto. Volevo sapere se vi risulta che c'è questa clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione o no, perché io ho visto anche un'ANSA d'agosto 2017 che parla di rinnovo fino al 2020, quindi ci sono in ballo parecchi milioni. No, questa cosa sarà chiarita. E di fatto praticamente Ventura percepisce lo stipendio solo fino alla fine, del periodo del biennio a giugno del mondiale, a luglio non scattava la proroga, c'era la clausola che in caso di eliminazione non sarebbe scattato il rinnovo, quindi a questo punto di vista chiarito questo aspetto legale. Giulio? Pronto? Dica. Ciao ragazzi, volevo chiedere a Pardo, siccome lui è bravo a fare le analogie con le donne, erano la similitudine era fra Ventura e Conte, nel senso che con Conte uno si è abituato, che è stato per un paio di anni con Belen e poi mi passa a Malgioglio, c'è una via di mezzo secondo me tra Belen e Malgioglio, no? Insomma, magari... la via di mezzo c'è, però io scusate, di fare quello che adesso dice che Ventura era il peggior allenatore del mondo, non ci sto, perché ci sono le registrazioni, le nostre prima di tutto, ci sono i titoli di giornali, ci sono. Ventura non era un allenatore che scaldava i cuori, su questo non c'è dubbio, non era minimamente avvicinabile a Conte, però quando Ventura è stato chiamato in nazionale, ripeto, visto tumulti di piazza o giornali che dicevano è la scelta peggiore, faremo schifo, no, andremo fuori dal mondiale. Anche se allora, siccome bisogna essere onesti, ripeto, io non me l'aspettavo, io ho sbagliato. Io non pensavo che l'Italia uscisse. Ma non è che non lo pensavo un anno fa, non lo pensavo 10 giorni fa. Pensavo che arrivavamo malissimo a questa doppia sfida, ma che in qualche modo l'avremmo portata a casa. Non è successo e ho sbagliato. Nel peggiore dei modi. Però non di fare quello che invece dice, ve l'avevo detto, non mi va. No, anche se Pierluigi, per onestà, il quadro era diverso, cioè doveva esserci Lippi accanto a Ventura, e questo secondo me avrebbe cambiato qualcosa. Ma assolutamente, qualcosa, anche perché i primi errori di Ventura nella prima parte della sua gestione, nel primo anno in cui le cose sono andate abbastanza bene dal punto di vista dei risultati, erano stati di comunicazione. Di comunicazione, certo. Berardi, Giorginio, una serie di frasi un pochino troppo a ruota libera in conferenza stampa, quello era stato poi il problema. Poi avresti avuto bisogno anche nell'ultimo periodo, dal Bernabeu in poi, di un uomo forte come Marcello Lippi poteva essere. Tommaso da Milano, poi chiudiamo. Buon pomeriggio, grazie della convocazione. Sono pienamente d'accordo con quest'ultimo intervento, perché il problema secondo me è che è mancata la federazione. Ventura ha fatto delle uscite brutte in pubblico, ha mostrato molta incertezza, le voci che sono uscite sui meeting dei giocatori e dei veterani sono orribili. E lì la federazione e forse il team manager doveva essere un po' più presente. C'è mancato Gigi Riva, non come centravanti, ma come team manager. Forse prima, e adesso ovviamente magari prendersela con Oriali è ingeneroso nel senso, però forse la persona che doveva fare da collante tra la squadra e il mister e il CT in questo caso c'era è un po' mancata. Sì, sì, no, ma io sono d'accordo. Per raccontarvi quanto è liquido il calcio, Oriali è quello che lavorava con Mourinho all'Inter. Certo, cioè, io sono d'accordo. All'esterno te lo dico anch'io. Cioè, è ovvio che quando ci sono così tanti casini come quelli che abbiamo scoperto, che ci sono stati. No, vabbè, però il team manager, soprattutto con quella storia calcistica, quell'esperienza con Oriali, serve anche a quello. Quindi qualcosa anche lì non ha funzionato. Ma è lo stesso che con Mourinho invece ha funzionato alla grandissima. Per cui insomma. È complicata, ragazzi, è complicata la situazione. Comunque, anche detto questo, ribadisco, insomma, il titolo della giornata a tutti i convocati è quello di Schianchi, che ci dice che Ancelotti sarebbe disponibile a patto che cambino tante cose e che si disegni un progetto. E non sarebbe neanche questo. Brandi non ha difeso da vecchio, ma chi lo sponsorizza, cioè Galliani, ci scrive Stefano. Leggere se non avete la coda di paglia. Non credo che sia questo il tema, anche perché lì pure mi pare che siano cambiate molto le gerarchie. Sì. Ad esempio Lotito, che era un tavecchiano della prima ora, sappiamo non bene che più, da un anno e mezzo non è più. Credo non che Brandi difenda un principio, l'ho letto perché non ho coda neanche di paglia. Ha diritto di avere la sua opinione. Dobbiamo andare. C'è chi sa bene con i giocatori. Ventura allenato solo un anno, non due. Tanto sveglia. Domani torniamo. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia. Domani alle 14, tutti convocati. Ciao. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.